Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. '19:16 in questo esatto istante, gentili ascoltatori, buona serata, ben ritrovati a Nessun luogo è lontano. I saluti vi arrivano anche da chi con me ha costruito questa puntata: Nadia Zammitti, Laura Faggini in redazione, Giorgio De Luca qui davanti a me in assistenza e Carmelo Lauricella che gli darà musica e ritmo. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi: la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms se siete sintetici al 349-238-6666. Il profilo Facebook, cercatelo, è facile, Nessun luogo lontano trattino Radio 24. Infine potete twittare o cinguettare a @nessunluogo24. Vi ripeterò le coordinate, gentili ascoltatori, perché vorrei solleticarvi su un tema che a me ha appassionato, o meglio dovrei dire l'assenza di questo tema mi ha appassionato. Infatti in questa puntata, un po' sui generis di Nessun luogo è lontano, parliamo di un grande assente. O forse dovrei dire di una grande assente. Nella campagna elettorale la politica estera sembra non comparire nei programmi delle sei principali liste che esprimono un premier. Io ho qua davanti sulla scrivania i loro programmi e adesso vi aggiornerò, vi ragguaglierò su che cosa si dice della politica estera da parte di queste sei liste. Ma il tema di oggi è questo: chiunque salga a governo dovrà fronteggiare alcune sfide e dovrà misurarsi su alcuni teatri all'estero. Lungi da noi dettare, come dire, l'agenda politica di chi salirà al governo, ma una cosa è certa: l'Italia dovrà decidere che posto avrà nel mondo. E questa assenza dei temi di politica estera nella campagna elettorale, insomma, chi sta seguendo i dibattiti televisivi, radiofonici, chi sfoglia i giornali, vede che insomma i candidati non ne parlano, non si parla delle grandi questioni internazionali al di fuori dei nostri confini. E questa assenza è ancora più forte se ricordiamo, per esempio, quanto negli Stati Uniti siano importanti e occupano spazio anche nei dibattiti TV, con una serata, ad esempio, totalmente dedicata appunto a quella che è la politica estera. E allora ho chiesto lumi a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York e autore di America 24. Ma guarda, Giampaolo, devo dire, la politica estera, tutti ci aspettavamo che a un certo punto sarebbe in qualche modo esplosa, perché bene o male l'America ha due guerre aperte, o meglio, quella in Iraq, c'è stato il rimpatrio, ma c'è una situazione comunque difficile, c'è una guerra in Afghanistan, sappiamo che gli Stati Uniti insomma si trovano in difficoltà nel mediare il processo di pace in Medio Oriente, la Siria che esplode, gli incidenti di Bengasi, insomma materiale ce n'era parecchio. Eppure alla fine la politica estera ha giocato un ruolo, direi, secondario da un punto di vista del dibattito strettamente politico. Lo ha giocato invece, direi, molto importante nel momento in cui c'è stato l'oggetto del contendere. E l'oggetto del contendere vero è stato Bengasi. Ecco, è stato il momento più delicato per la corsa di Barack Obama, perché improvvisamente Mitt Romney ha attaccato, i repubblicani hanno attaccato, e hanno detto che di fatto l'amministrazione Obama e Hillary Clinton, in appoggio a Barack Obama, stavano mentendo su come davvero erano andate le cose. E cioè l'amministrazione diceva: ma ancora non siamo sicuri se si è trattato di una manifestazione popolare spontanea o di un attacco premeditato e coordinato. Ecco, si era invece capito che si trattava di un attacco premeditato e coordinato, però l'amministrazione Obama aveva costruito una linea politica secondo cui Al-Qaeda era stata debellata, l'intelligence funzionava e dunque si sarebbero trovati in difficoltà se si fosse dimostrato che era un attacco, diciamo così, quindi cercavano di guadagnare tempo. Ecco, questa dicotomia su come erano davvero andate le cose è diventato oggetto di un dibattito politico feroce, sono sicuro che alcuni dei nostri ascoltatori lo ricorderanno. Ecco, per il resto ti dicevo, non grandissime cose. Proprio il dibattito che doveva essere dedicato in buona parte alla politica estera, e beh, insomma, ha finito per scivolare poi su questioni di politica interna, perché poi il voto alla fine viene deciso sulle cose che sono più vicine a noi, sulle cose locali. Che è un po' la grande tendenza della politica italiana, a chiudersi dentro l'Italia dimenticando i grandissimi fatti, i grandissimi eventi che stanno cambiando il mondo, proprio lì, anche lì vicino, lì a ridosso dei nostri confini. Perché? Quanto vi dà fastidio questa assenza di un programma di politica estera nei candidati che state osservando alla televisione, che state ascoltando alla radio o leggete sui giornali? 349-238-6666 oppure Facebook, nessun luogo è lontano, trattino Radio 24, oppure Twitter, nessun luogo 24. E già su Facebook un ascoltatore scrive: la questione più importante è avere un vero ministro degli esteri, non come i precedenti che hanno contribuito a peggiorare la nostra posizione. Continuate a scriverci, 349-238-6666. Allora, io ho qua i programmi sotto mano, sarò molto breve perché non c'è moltissimo. Parto dal programma del PD, l'Italia Giusta. C'è una piccola nota in chiave europea e diciamo che se proprio i candidati si sbilanciano proprio in chiave Europa sì, Europa no, per sintetizzarla. Nel programma del PD si legge: anche per l'Europa, infatti, la prossima sarà una legislatura costituente in cui il piano nazionale e quello continentale saranno intrecciati stabilmente, una legislatura nella quale l'orizzonte ideale degli Stati Uniti d'Europa dovrà iniziare a acquistare concretezza in una nuova architettura istituzionale dell'Eurozona. Poi Scelta Civica con Monti per l'Italia. Qua insomma si dilunga un po' di più, il programma è piuttosto lungo, vi sono alcuni capoversi che vi leggo perché non c'è tantissimo, ripeto. Si parte dallo spread, la crescita, lo sviluppo del nostro paese. Per questo, recita il programma, è stata data priorità a rafforzare la posizione dell'Italia dentro l'Unione Europea e rinsaldare i legami con gli Stati Uniti, promuovendo un più forte legame transatlantico. Allo stesso tempo l'Italia ha rafforzato il suo posizionamento in tutti i quadranti fondamentali dello scacchiere globale, dal Medio Oriente all'Asia. La collocazione geografica dell'Italia al centro del Mediterraneo impone di guardare con più coraggio e con una visione strategica ai grandi cambiamenti politici, economici e civili suscitati dalla primavera araba e di sostenere percorsi di vera democratizzazione. Questa la Lista Civica con Monti. E quantomeno si abbozza una visione strategica, si dà importanza a quello che è accaduto sull'altra sponda del Mediterraneo. Altre liste invece, come quella di Oscar Giannino, Fare per fermare il declino, che sono liste, chiamiamole one issue, cioè fanno dell'economia il loro cavallo di battaglia, assolutamente non parlano di politica estera. Così come non parla di politica estera, al di là della battuta di oggi di Beppe Grillo, l'avete sentita anche dai titoli del GR, ma insomma poco più di una facezia, non parla appunto il Movimento 5 Stelle, che parla invece di Stato e cittadini, energia, informazione, economia, trasporti, salute, istruzione, ma insomma quello che accade fuori dai confini dell'Italia e come l'Italia dovrà giocare il suo ruolo di potenza occidentale nel mondo, quello proprio non si va a sapere. PDL Berlusconi presidente, nel punto 3, più Europa dei popoli, meno euro burocrazia, col superamento viene segnalato di una politica europea di sola austerità, e questo è l'unico, lo dicevo molto spesso, come dire, la politica estera si risolve in politica economica all'estero e la parola d'ordine è Europa. E infine Rivoluzione Civile di Ingroia, quello che, se volete, insomma, scende un po' più nello specifico, e poi su un punto andremo proprio anche noi in dettaglio nel corso della trasmissione. C'è un punto che si chiama Per la pace e il disarmo e recita: va ricondotta la funzione dell'esercito alla lettera e allo spirito dell'articolo 11 della Costituzione, a partire dal ritiro delle truppe italiane impegnate in missioni di guerra. Va promossa la cooperazione internazionale, l'Europa deve svolgere un'azione di pace e disarmo, in particolare nell'area mediterranea. Va abrogata la riforma Monti delle forze armate, vanno tagliate le spese militari a partire dall'acquisto dei cacciabombardieri F-35 e di tutti i nuovi armamenti. Insomma, come avete sentito, il tema esteri non rientra tra le leve politiche di questa tornata elettorale. In generale, fatte salve poche eccezioni, appunto, gli affari internazionali sono poco considerati, sempre meno anche dai media in generale. E la mia opinione è che si crea un pericolosissimo cortocircuito in cui i giornalisti non raccontano gli esteri o li raccontano sempre meno, la gente ne sa sempre meno, a meno di andarsi a cercare le notizie, e non esige poi piani chiari dai politici che sono in lizza. Cioè, semplicemente e inesorabilmente ci chiudiamo in un mondo sempre più piccolo. Ma come spesso diciamo da questi microfoni, nessun luogo lontano significa che non possiamo accorgerci che esiste un paese Mali perché la Francia a un certo punto decide di condurre questa guerra, o non possiamo non accorgerci che c'è un paese che si chiama Nigeria perché a un certo punto un italiano vi viene rapito e la cosa finisce tragicamente. C'è un mondo fuori a cui dobbiamo interessarci e a cui l'Italia dovrebbe interessarsi. E allora do il mio buonasera, il mio benvenuto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Lucio, direttore, buonasera. Salve, buonasera, tanti auguri. Allora, intanto auguri a te per questa nuova avventura, giusto Lucio, perché Limes cambia. Sì, siamo diventati da questo primo numero del 2013 mensile e cerchiamo quindi di seguire un po' la politica internazionale con una cadenza migliore, più legata all'attualità. Infatti partiamo dall'Egitto, l'Egitto e i suoi fratelli è il primo numero di questa nuova serie. Ecco Lucio, perché la politica estera non sta rientrando, e dubito insomma che vi saranno colpi di scena da qui al 24 febbraio, perché non rientra nella campagna elettorale? Non muove consensi semplicemente, oppure, qua ti provoco, l'Italia non ha una sua politica estera? Credo che sia vera la tua seconda ipotesi, nel senso che storicamente la politica estera è sempre stata in Italia affare di una piccola elite di professionisti o di... mentre in realtà dovrebbe interessare per i suoi riflessi sulla nostra vita quotidiana tutti quanti. Inoltre negli ultimi anni la classe politica è diventata sempre più provinciale, sempre meno collegata al resto del mondo e quindi si occuparsi unicamente degli affari propri senza contare tutto quello che accade intorno a noi. Intanto al 349-238-6666 arrivano i primi commenti. Rosetta dice: la considero una assenza grave, la interpreto come disprezzo del nostro diritto di esprimerci o come ignoranza. Molti cenni sono generici e demagogici. O ancora, andando oltre la campagna elettorale, il vuoto sui media, c'è sempre villaggio globale, quasi nessuna informazione, si chiede Anna Maria. E poi un altro ascoltatore, Giacomo da Ferrara, che vabbè, ci ringrazia per parlare di questo. Allora, 19:27, no, è presto per dare la pausa. Allora partiamo da un teatro che mi sembra emblematico per andare a spiegare come l'Italia e l'Europa più in generale si sta muovendo sui grandi temi. Andiamo in Mali. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. Government forces have launched a counter-offensive against Al-Qaeda-linked rebels in the north of the country. The Malian government says it's battling rebel fighters in the town of Kona, 600 kilometers east of the capital. The rebels had earlier pushed the army from the town. Della crisi maliana ne abbiamo parlato a lungo in questa trasmissione, perché da un lato insomma tutto lo stupore dei governi occidentali di fronte a questa ascesa dei gruppi estremisti era assolutamente immotivata. Insomma, chi segue quella zona sa perfettamente che vi era in preparazione tutto quello che poi è accaduto. E poche settimane fa, proprio a questi microfoni, il sottosegretario agli esteri Staffan de Mistura precisava a una domanda, diceva: noi non siamo al traino della Francia. Lucio Caracciolo, direttore di Limes, siamo al traino della Francia, quantomeno nella crisi maliana? Non siamo al traino della Francia perché non siamo presenti sul terreno e nemmeno con un sostegno militare di un qualche peso, e inoltre ci illudiamo che la cosa non ci riguardi. Nessun luogo è lontano. Disperatamente cercasi politica estera, quantomeno in campagna elettorale. Perché non se ne parla? Forse perché i politici non sanno che posto dovrà avere l'Italia nel mondo. Eppure nelle campagne elettorali di altri grandi paesi se ne parla, e come. Abbiamo citato il caso americano, è vero, è totalmente diverso, però insomma in una grande democrazia come quella americana, delle tre serate dedicate al dibattito fra i due candidati, un'intera serata è dedicata solo a quello. Perché l'America ha un suo posto nel mondo, poi si può disquisire insomma, come dire, sull'ideologia, su quanto sia giusto o sbagliato, ma non è questo il tema. Il tema è che dovremmo essere informati sui politici che cosa intendono fare in politica estera. Al 349-238-6666 arrivano moltissimi messaggi. Roberto che dice: ero frustrato, credevo fossi l'unico a sentire la mancanza, e dice: è chiaro, il PD ha sempre votato i finanziamenti alle missioni, la destra ha fatto la guerra con Bush, Monti l'abbiamo visto col Mali, perché parlarne se sono d'accordo, rispetto per l'articolo 11, danni calpestato, vabbè, grazie. E un altro ascoltatore che dice: io che ci guadagno ad avere una politica verso la Nigeria se non ho i pozzi laggiù? La politica estera conta solo se c'è da guadagnarci qualcosa. Beh, intanto noi abbiamo interessi economici fortissimi in Nigeria, quindi un po' più di attenzione non guasterebbe. E poi c'è un altro messaggio, Claudio da Torino: noi non contiamo nulla nel mondo, facciamo come la Svizzera. E ancora Carmen, e l'Europa dell'Est esiste? È giusto, altra bella provocazione questa. Vi sorprendete dell'assenza della politica estera nei programmi politici? Voi siete l'unica trasmissione che se ne occupa in tutto il panorama radiofonico. Non se ne parla, la gente se ne frega. Ma non è vero che se ne frega, ne sono una prova tutti gli sms che stanno arrivando, che continuerò a leggere. Ma torniamo a Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Lucio, si diceva, tu mi dicevi, insomma, non siamo al traino della Francia in Mali. Però il caso maliano mi sembra emblematico, intanto di, come dire, una certa anarchia anche a livello europeo, no? Nella guerra in Libia fu Sarkozy e fu sempre la Francia a muoversi per i profondi e fortissimi interessi che aveva in Libia, e noi ci siamo accodati. In Mali anche stavolta, insomma, gli interessi economici e geostrategici sono incredibili, e noi ci accodiamo molto timidamente, perché poi è più un supporto politico per ora che altro. Tutto questo non relega l'Italia in una posizione di serie B? Sì, noi quando vi sono delle crisi siamo unicamente preoccupati di essere in qualche modo ammessi al tavolo delle decisioni, non avendo però nulla da dire di nostro a questo tavolo. Sembra quasi che vi sia un problema di rango, di posto a sedere, e non invece una serie di interessi da difendere. Per quanto riguarda il Mali in sé non è una questione strategica, ma il Mali è dentro una regione, il Nord Africa, da dove provengono gran parte dei nostri approvvigionamenti energetici. Basta vedere quello che è successo qualche giorno fa in uno dei più grandi giacimenti gasieri algerini, che ha molto a che fare con la crisi del Mali, che ha immediatamente provocato una forte diminuzione dei flussi di gas algerino verso il nostro paese. Quindi stiamo parlando, se vogliamo proprio restare ai temi più concreti, di interessi economici fondamentali che sono in gioco in una regione molto turbolenta. Ecco, un ascoltatore sottolinea in maniera piuttosto lucida e acuta, direi, che nel 2003, con la seconda guerra in Iraq, Roma è stata la città con più manifestanti contro la guerra. Hanno paura a toccare la patata perché bollente. Lucio, è vero che la politica estera non si fa solo con le armi, per carità, però è anche vero che le forze di difesa sono una leva formidabile in questo senso. Missioni di pace, presenza sul territorio, per rinsaldare poi economie, eccetera. E questo è il punto, la patata è troppo bollente, le missioni di pace sono troppo bollenti, pace o guerra, insomma, poi è tutto da... Direi guerra, anche se la parola guerra non la possiamo usare per via di una interpretazione della Costituzione, ma di fatto noi siamo andati a fare la guerra, e la cosa interessante è che l'abbiamo fatta quasi sempre, se non sempre, contro i nostri interessi, a cominciare dalla guerra in Jugoslavia, voluta da un governo di centrosinistra, in cui per esempio abbiamo, oltre a bombardare Belgrado e ammazzare un sacco di gente, abbiamo anche bombardato le fabbriche della Fiat a Zastava, tanto per citare un caso concreto. Quindi la nostra idea della guerra è non poterne parlare, ma farla per compiacere i nostri alleati maggiori, i leggi in questo caso gli americani. Ecco Lucio, tu sai che l'Africa è un po' il mio grande pallino, perché mi sembra che sia cruciale, sia importantissima. È un continente, e gli ascoltatori mi scuseranno per la riduzione, è un continente in crescita, è un continente in cui alcuni paesi hanno PIL a doppia cifra, in cui la penetrazione di internet, di telefonini 3G è la più alta al mondo, in cui vi sono industrie cinematografiche, per tornare al caso della Nigeria, che è tipo Nollywood a Lagos, che è la terza al mondo, estremamente sottovalutato. Dovrebbe, secondo te, più in generale l'Africa essere al centro degli interessi italiani, e in che modo, secondo te, potremmo incunearci in qualche modo in quel teatro? Beh, intanto noi abbiamo un'Africa che è dentro casa nostra, nel senso che la Tunisia è più a nord della Sicilia, almeno in parte, quindi ce l'abbiamo dentro casa, non solo dal punto di vista della vicinanza, ma anche dal punto di vista della popolazione, dei lavoratori. Quanti lavoratori che vengono dall'Africa vivono oggi in Italia? Molti, moltissimi, e sempre di più. Quindi molto di quello che accade, soprattutto in Nord Africa, ci tocca direttamente. Sembra però che qui non ce ne si voglia accorgere e che si limiti la nostra politica in Africa a reagire alle crisi. Peraltro, essendo questa reazione o verbale oppure di partecipazione a dei bombardamenti, non c'è invece una linea politica di lungo periodo. Parlando di Africa, c'è un caso emblematico, ma su questo poi dedicheremo un'intera puntata di Nessun Luogo è Lontano, che è il caso somalo. E mi sembra che la dimenticanza storica e strategica italiana, perché è vero che siamo lì, stiamo facendo delle cose, si sta riaprendo un'ambasciata, però Io ricordo sempre che a Mogadiscio c'è chi parla italiano, c'è gente di 60-70 anni e quando tu vai a Mogadiscio... Sempre meno però, come sai meglio di me. Sempre meno, è verissimo, però quando a un certo punto per le strade di Mogadiscio c'è un signore di 65-70 anni che dice: e voi italiani dove siete finiti? Questa rarefatta presenza italiana, e non ne voglio fare un discorso, come dire, morale, no? Di responsabilità da ex coloni, ma quantomeno storico, ecco. Questa toccata e fuga dell'Italia dall'Africa mi sembra che sia una grandissima contraddizione. Certamente, vale per la Somalia, vale per l'Eritrea, vale a maggior ragione ancora per la Libia, vale insomma per tutti quei paesi dell'Africa che sono stati parte del nostro cosiddetto impero coloniale. In Somalia il problema grosso è che ormai da un paio di decenni non esiste più nemmeno un embrione di Stato e quindi la nostra presenza è obiettivamente limitata, come è obiettivamente limitata quella di altri paesi stranieri. Ma io credo che vi sia anche un problema culturale, un problema di memoria storica, un problema di conoscenza di quello che è stato il nostro passato africano. Non so quanti italiani sanno che fino al 1961 la Somalia era sotto amministrazione fiduciaria italiana. E questa grave lacuna, insomma, è anche responsabilità di noi giornalisti, dovremmo raccontare di più certe cose, certi teatri. Ripeto, ha ragione Lucio Caracciolo, apparentemente lontani, e quando si parla di Africa la si considera lontana, bisognerebbe ricordarsi appunto che in Nigeria ci sono i pozzi di petrolio dove lavorano gli italiani, che un sacco di migranti nigeriani lavorano in Italia, quindi insomma... Okay, si può... per esempio la più grande scoperta in campo gasiero dell'ENI è stata fatta recentemente in Mozambico. Ecco, giusto per citare appunto l'ENI e la Nigeria, ma insomma noi possiamo anche non occuparci di affari internazionali, ma saranno loro, come ripeto spesso, a occuparci di noi. Adesso cambiamo decisamente argomento e l'argomento è una sigla, F35. E poi continuerò a leggere gli sms al 349-238-6666 perché sono tanti. Insomma, l'assenza del tema sta appassionando gli ascoltatori di Nessun Luogo. F-35, questo caccia bombardiere che l'avete sentito, è citato anche nel programma della lista di Ingroia, insomma non bisogna acquistarlo. Se c'è un tema di politica della difesa e politica estera che è stato citato, strumentalizzato e usato in questa campagna elettorale, è stato decisamente l'acquisto di questi jet. Allora, siccome io sono assolutamente e totalmente ignorante in materia, chiedo lumi a Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana difesa. Pietro, buona serata, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a tutti, buonasera. Eccolo. Pietro, allora, per noi comuni mortali poco avvezzi al linguaggio, al lessico militare, ci puoi spiegare questo F-35, che cos'è, di cosa si tratta, cosa può fare, qual è la sua importanza? Guarda, sostanzialmente si tratta di, al di là delle implicazioni e delle valenze operative e militari dell'aereo, siamo di fronte a una battaglia per certi aspetti ideologica, per cui abbiamo l'aereo americano con il K, il cacciabombardiere che bombarda, quindi diciamo ci sono tutti gli ingredienti classici per una ricetta che insomma sa molto di ideologia, sa molto di cose più o meno già sentite, già viste. Per quanto riguarda gli aspetti militari, si tratta di un cacciabombardiere di nuova generazione, costruito secondo criteri che sia relativi alla struttura dell'aereo che alla sua componente elettronica, costruito con criteri innovativi, rivoluzionari. È di fatto un aereo che potrebbe cambiare il modo stesso di concepire le operazioni aeree, che comunque offrirebbe a chi lo compra, quindi alle forze armate italiane, l'aeronautica militare e la marina militare, una capacità operativa rilevante, posto che si tratta di un sistema che comunque costa, perché è un sistema all'avanguardia e aerei e mezzi militari all'avanguardia costano, hanno un costo. E quindi in ultima analisi si ritorna un po' al discorso delle ambizioni del paese. Cosa vuole fare questo paese da grande? Vuole essere un paese che, come ha fatto negli ultimi 20 anni, vuole essere protagonista sulla scena internazionale, insieme agli alleati, insieme alla NATO, insieme all'Unione Europea, insieme alle Nazioni Unite. Noi siamo in Libano con le Nazioni Unite. Per cui se questo paese continua a voler esprimere quella politica estera e quella politica di difesa che ha espresso negli ultimi 20 anni con governi di centrodestra e di centrosinistra, ricordo che negli stessi governi di centrosinistra c'erano anche componenti radicali, non ce lo dimentichiamo mai, per cui se vuole continuare a giocare questo ruolo di conseguenza che si doti di uno strumento militare adeguato, finanziato e operativamente capace, insomma. Poi per il resto siamo di fronte a propaganda, ideologia, cortine fumogene e così via. Ecco, e altrimenti vogliamo che i nostri militari, le nostre forze armate si vogliano occupare soltanto di protezione civile o qualcos'altro, o facciamo una scelta di conseguenza e compriamo, invece che gli F-35 compriamo semplicemente fucili e così via, insomma. Mi sembra un discorso di logica, di buon senso, di rapporto costi-benefici, insomma, di se X allora Y, come ci insegnavano i nostri professori di matematica. Anche gli F-35, anche un'adeguata struttura delle forze armate è uno strumento della politica estera, Lucio Caracciolo? Sì, lo sarebbe se vi fosse una politica estera. Io trovo piuttosto curioso questo dibattito intorno a quali armi scegliere se non c'è una strategia di politica estera, a meno che per strategia non si intenda il fatto di poter mettere dei piccoli gettoni nei teatri di guerra in cui sono impegnati i nostri alleati. In questo senso anche gli F-35 possono servire, purché, ripeto, non servano a bombardare nostre installazioni industriali piuttosto che semplicemente a sparare nel mucchio, come è stato finora negli ultimi 20 anni, fra l'altro non mi pare con ciò conquistando delle particolari posizioni di privilegio in campo internazionale o un particolare rilievo nei confronti dei nostri alleati che continuano allegramente a snobbarci. È anche vero che però Pietro Batacchi citava il teatro libanese, dove lì siamo molto presenti, così come quello afghano, dove un intero settore è sotto la responsabilità italiana fino al 2014, insomma, quando vi sarà poi il ritiro forse completo, perché poi Obama qualche settimana fa aveva detto l'opzione zero è al vaglio, vedremo. Pietro Batacchi, direttore di Rivista Italiana Difesa, per mantenere gli attuali impegni in campo internazionale cosa dovrà fare il prossimo governo? Quindi su questi F-35, per partire da questi, cosa dovrà fare? Fra l'altro Monti li aveva già tagliati, dovevano essere 100 e qualcosa, sono diventati 90 con la spending review. Allora, gli F-35 originariamente dovevano essere 131 velivoli che sono stati ridotti appunto dal governo Monti e dal ministro Di Paola a 90 aerei. Ciò comunque ha garantito già un risparmio stimato nell'ordine dei 4 miliardi. Quindi questo è il punto. Venendo allo specifico della tua domanda, il problema è questo. Noi dai primi anni 90, dalla Bosnia in poi, abbiamo in media dispiegato all'estero tra i 5.000 e gli 8.000 militari, il che significa che per mantenere queste persone qui occorre un finanziamento e lo strumento militare adeguato. L'Italia spende per la difesa 14 miliardi di euro. Se noi guardiamo quanto spendono i nostri partner europei, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, spendono regolarmente di più. Non vale il discorso che si tratta di grandi potenze e così via, perché io ricordo la Germania è un paese che comunque non si è mai occupato di questioni strategiche e politico-militari, eppure spende per la difesa, ancorché abbia un PIL superiore al nostro, spende per la difesa 30 miliardi di euro. Quindi ecco, però poi bisogna, fare no, bisogna fare debiti e promozioni. Se il PIL è più alto, è chiaro che uno si può garantire una spesa militare differente. Assolutamente, però sostanzialmente se noi vogliamo mantenere questo livello di impegno militare occorre uno strumento militare che sia adeguatamente finanziato. Non è un caso che a fronte della sostanziale riduzione del finanziamento dello strumento militare, alla fine quest'anno, nel 2012, il ministro Di Paola abbia deciso a fare quello che un po' nel nostro piccolo di Rivista Italiana Difesa dicevamo da anni, ovvero a avviare una stagione di riflessione riforma, anche per lo strumento militare, di razionalizzazione della macchina organizzativa, di purtroppo, ai noi, dolorosi riduzioni dell'organico delle forze armate, per cui oggi siamo arrivati a un punto in cui lo strumento militare rischiava di sostanzialmente inceppassi, di non funzionare più come macchina in grado di dare e produrre sicurezza, e per evitare la paralisi purtroppo è stato dovuto dar corso a quella grande riforma, alla legge delega approvata dal Parlamento, promossa dal ministro Di Paola. Su questa linea peraltro si stanno muovendo tutti i paesi europei, a cominciare dal Regno Unito, e io vorrei citare un esempio che secondo me è indicativo di questa grande stagione di tagli per la difesa in tutta Europa. Regno Unito per 10 anni, la Royal Navy, la padrona per secoli dei mari, perderà la sua componente portaerei, non avrà più portaerei per 10 anni, proprio a causa della crisi, di tagli. Sì, dice una tendenza abbastanza generalizzata. Grazie Pietro Battacchi, direttore della rivista Italiana Difesa, buona serata. Grazie a voi. Buon lavoro. Hai citato il caso della Gran Bretagna, e allora parliamo di Cameron. At some stage in the next few years, the EU will need to agree on treaty change. So the next Conservative manifesto in 2015 will ask for a mandate from the British people for a Conservative government to negotiate a new settlement with our European partners in the next Parliament. Should I stay or should I go? Sullo schiaffone di Cameron dei giorni scorsi all'Europa, il fatto che potrebbe appunto la Gran Bretagna non rimanerci, abbiamo dedicato la puntata di Nessun Luogo, però volevo solleticare Lucio Caracciolo, direttore di Limes, su questo punto, perché se, come dire, un teatro viene evocato dalle 6 liste in campagna elettorale è proprio quello europeo, e lì si apre la grande sfida europea. Può l'Italia avere un ruolo di prim'ordine in quest'Europa in cui la Gran Bretagna potrebbe defilarsi? L'Italia non solo può averlo, ma ce l'ha malgrado noi stessi, nel senso che noi non abbiamo in realtà una strategia europea, ma siamo un paese, un'economia soprattutto, talmente importante nel contesto dell'Eurozona, che nel caso Dio non voglia che l'Italia vada a gambe all'aria, questo toccherebbe inevitabilmente in maniera sostanziale tutta l'Europa, farebbe saltare il sistema euro e per conseguenza il resto del mondo. Quindi da questo aspetto, sotto questo profilo, l'Italia è una grande potenza inconsapevole, ma una grande potenza inconsapevole vuol dire che è una potenza esposta alle decisioni altrui senza sapere esattamente dove andare. Ecco, e fra l'altro sul tema altri sms al 349-238-6666, Ilaria da Bassano del Grappa dice: l'Italia è un paese provinciale, come tale troppo concentrato su se stesso, ma anche gli italiani sono provinciali e non vogliono sentir parlare di politica estera perché bisogna prendere decisioni scomode e senza ipocrisia. Simone da Lucca: secondo me i politici preferiscono farci capire che tutte le leggi e decisioni prese saranno merito del governo italiano anziché europeo, così magari la gente sentirà il bisogno di votare a malincuore degli inetti, incapaci, meno peggio degli altri. Così durissimo Simone da Lucca. C'è un ultimo teatro che volevo affrontare con Lucio Caracciolo, che è quello medio orientale. E perché la Siria è sempre lì che traballa e vacilla. I russi adesso stanno parlando con l'opposizione siriana proprio in queste ore, e che, come dire, prefigura una possibile caduta di Assad in tempi brevi, ma soltanto le cronache ci daranno ragione su questo. Non c'è solo la Siria, c'è la questione palestinese, c'è sempre il grande nemico iraniano, ma in quel teatro lì, al di là della presenza militare italiana, come l'Italia potrebbe dire la sua? La sensazione è che, al di là del fatto che i politici non ne parlano quasi mai, tranne in passato sulla questione palestinese, soprattutto la sinistra si è pronunciata, però mi sembra che il Medio Oriente sia vissuto in maniera molto molto distante, forse più del Maghreb. Lucio Caracciolo. Purtroppo è una parte del mondo relativamente vicina a noi, non come il Nord Africa, ma nella quale non abbiamo mezzi di influenza seri, a parte la nostra presenza in Libano, che però è una presenza, diciamo, di passiva, nel senso che se il Libano salta per aria l'unica cosa che possiamo fare è andarcene il prima possibile, ma in generale abbiamo visto che non solo l'Italia ma perfino gli Stati Uniti d'America ormai hanno un'influenza relativamente limitata su quello che accade in Medio Oriente, perché le forze indigene locali sono quelle che determinano i fatti, l'hanno determinato nelle primavere arabe, cosiddette primavere arabe, in Tunisia, in Egitto, lo determinano in Siria e lo determinano anche in generale in tutta la regione. Grazie, grazie Lucio Caracciolo per essere stato con noi. Grazie a voi. Un po' di scoramento anche da parte tua, sento, insomma, tono un po' così. Però, insomma, dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti, insomma, non dobbiamo nemmeno immaginare di poter fare delle politiche per le quali non abbiamo cultura. Però almeno iniziamo a parlarne. Grazie Lucio, buona serata, buon lavoro, in bocca al lupo per la nuova avventura. Grazie. Di Limes. Grazie. E siamo quasi in chiusura, però mi prendo un paio di minuti per rispondere e leggere alcuni sms. Uno mi ha toccato particolarmente perché, insomma, dice: mi disgusta come parlate dei nostri interessi, tra virgolette, qui o lì. Invece di pensare ad aiutare l'Africa a svilupparsi, ancora pensiamo in termini colonialisti. Il lessico vi tradisce. Se il lessico mi ha tradito, assolutamente chiedo scusa. Chi mi segue sa perfettamente che assolutamente lungi da me questa visione. Anzi, fra l'altro direi che l'Africa non ha bisogno di svilupparsi, perché si sta sviluppando molto bene da sola. E chi ascolta i miei reportage e mi segue sa perfettamente che batto molto su questo. L'Africa ha degli anticorpi formidabili, ha una classe intellettuale, ha un'industria che sta crescendo e non ha certo bisogno dell'uomo bianco che va lì a insegnargli che cosa deve fare. E poi ancora altri sms, senza ironia, diceva, riferito all'impegno militare, un ascoltatore: compriamo tende e generatori per le emergenze e mandiamo l'esercito a sistemare gli argini. Ecco cosa mi ha fatto venire in mente e l'ultimo ospite. Ma in tempi di droni, poi dice un altro ascoltatore, ancora si pensano ai caccia. Beh, insomma, sì, evidentemente sì, i droni quelli ce li abbiamo anche noi comunque, ricordo assolutamente. Va bene, 19:56 e 43 minuti e 43 secondi, chiedo scusa. Un ringraziamento a Nadia Zammiti e Laura Faggin che hanno confezionato con me questa puntata, Giorgio De Luca in assistenza, Carmelo Lauricella che le ha dato musica e ritmo. Noi spegniamo il microfono e prendiamo lo zaino, andiamo al Cairo. Da lunedì al venerdì faremo una piccola missione per rifotografare Piazza Tahrir e non solo, e ve la restituiremo sabato prossimo 19:15. Un saluto da Giampaolo Musumeci.